Padre Malachi O'Flynn. Introibo ad altare diaboli. Il reverendo Mr. Heinz Love. Al diavolo che ha lietato i miei giovani giorni. Padre Malachi O'Flynn prende dal calice ed eleva un'ostia grondante sangue. Corpus meum. Il reverendo Mr. Heinz Love rialza il di dietro della sottoveste dell'officiante, scoprendo le nude natiche grigiastre e pelose, tra le quali è infilata una carota. Il mio corpo. La voce di tutti i dannati. Angeret netopinno oid erongis lie chop aeulella. Dall'alto si ode tuonare la voce di Adonai. Adonai, oid, la voce di tutti i beati. Alleluia! Poiché il Signore Dio Onnipotente regna. Dall'alto Si ode tuonare la voce di Adonai. Adonai, Dio! In stridente dissonanza, contadini e cittadini delle fazioni orangista e verde cantano Via calci il Papa e ogni giorno cantiamo invocando Maria. Il soldato Carr, con feroce sillabazione. Lo servo io che Cristo fottuto m'aiuti, gli torco il dannato collo della malora a quel fottuto bastardo. Il cane da caccia, annusando ai margini della folla, abbaia rumorosamente. Bloom corre da Lynch. Non può portarlo via. Lynch: ama la dialettica, il linguaggio universale. Kitty? A Bloom: lo porti via lei. Me non mi sta neanche a sentire. Trascina via Kitty. Steven lo segna a dito. Exit Judas, et laqueo se suspendit. Bloom corre da Steven. Venga con me prima che capiti di peggio. Eccole il bastone. Steven: niente bastone. La ragione, questa festa della ragione pura. La vecchia nonna sdentata allunga un pugnale a Steven. Fallo sparire a Kushla. Alle 8:35 di mattina tu sarai in cielo e l'Irlanda sarà libera. Prega. Oh buon Dio, chiamalo a te. Sissi Caffri, trascinando via il soldato Carr. Vieni via, sei sbronzo. Mi ha insultato, ma lo perdono. Urlandogli all'orecchio. Lo perdono di avermi insultata. Bloom, di sulla spalla di Steven. Sì, andatevene, vedete che non è in sé. Il soldato Carr si libera. Lo insulto io adesso. Si precipita su Steven coi pugni tesi in avanti e lo colpisce in piena faccia. Steven barcolla, crolla, cade intontito. Rimane a terra, faccia rivolta al cielo, mentre il cappello rotola fino al muro. Bloom lo segue e lo raccoglie da terra. Il maggiore Tweedy, ad alta voce: Spallar! Cessate il fuoco! Saluto! Il cane da caccia, abbaiando furiosamente. Uto, uto, uto, uto, uto, uto! La folla: Tiratelo su! Non lo colpite quando è a terra! Aria! Chi? È il soldato che l'ha colpito! È un professore! Si è fatto male? Non lo malmenate! È svenuto. Una megera. Che diritto aveva quella giubba rossa di picchiare il signore? E aveva anche alzato il gomito. Vadano un po' a combattere contro i boeri. La ruffiana. Senti chi parla? Non ha forse il diritto questo soldato di andare con la ragazza? L'altro l'ha preso a tradimento. Si prendono per i capelli, si graffiano e sputano. Il cane da caccia abbaiando. Bloom le caccia indietro con uno spintone e ad alta voce. Indietro, state indietro! Il soldato Compton, tirando via il compagno. Forza, Harry, tagliamo la corda. Ecco gli sbirri. Due guardie con mantelline impermeabili, alte, si fermano in mezzo al gruppo. Prima guardia. Che succede qui? Il soldato Compton. Eravamo con questa signora e lui ci ha insultati ed è saltato addosso al mio compagno. Il cane da caccia abbaia. Di chi è questo cagnaccio, sangue di Giuda? Sissi Caffri, con avidità ansiosa. Sanguina? Un uomo era in ginocchio, si alza. No, partito, tornerà in sé tra poco. Bloom dà un'occhiata diffidente all'uomo. Lasci fare a me, me ne posso occupare. Seconda guardia. Lei chi è? Lo conosce? Il soldato Carr beccheggia verso la guardia. Ha insultato la mia amica. Bloom, irosamente. Lei lo ha colpito senza essere provocato. Sono un testimone. Vigile, gli prende il numero di matricola. Seconda guardia. Non c'è nessun bisogno che lei mi insegni qual è il mio dovere. Il soldato Compton, tirando via il compagno. Forza, Harry, tagliamo la corda, se no Bennett ti schiaffa dentro. Il soldato Carr, barcollando mentre l'altro lo tira via. Me ne strafotto del vecchio Bennett, è un finocchio dal deretano bianco, non me ne importa una merda. Prima guardia, tirando fuori il taccuino. Come si chiama? Bloom, guardando al di sopra delle teste della folla. Ecco, c'è una carrozza, se mi dà una mano un attimo, sergente. Prima guardia. Nome e indirizzo. Appare in mezzo agli astanti Corny Keller, nastro nero attorno al cappello, corona da morto in mano. Bloom, rapidamente. Oh, proprio la persona che ci vuole, mormora. Il figlio di Simon Dedalus, un po' sbronzo. Dica alla guardia di far circolare questi sfaccendati. Seconda guardia. Sera, Mr. Keller. Corny Keller, alla guardia con occhio sonnacchioso. Tutto in regola, lo conosco io. Ha vinto 4 soldi alle corse. Coppa d'oro. Butta via. Ride. 20-1. Mi capisce? Prima guardia. Si volta verso la folla. Allora, che c'è da star lì a bocca aperta? Circolare, circolare. La folla si disperde lentamente, borbottando, giù per il vicolo. Corny Keller. Lasci fare a me, sergente, andrà tutto a posto. Ride, scuotendo la testa. Abbiamo fatto lo stesso anche noi e forse peggio. No? No? Prima guardia. Ride. Lo dico anch'io. Corny Keller. Dà una gomitata alla seconda guardia. Andiamo. Diamoci sopra un colpo di spugna. Canticchia dondolando la testa. Trallallero, trallallero, trallallero, trallallero. Mi capite, vero? Seconda guardia, giovialmente. Sì, anche noi ai nostri tempi. Corny Keller, strizzando l'occhio. I ragazzi sono ragazzi. Ho qui a 2 passi una vettura. Seconda guardia. Benissimo, Mr. Keller. Buonanotte. Corny Keller. Mi occuperò io di tutto. Bloom stringe la mano a ciascuna delle 2 guardie. Grazie molte, signori, grazie, sussurra confidenzialmente. Vogliamo evitare scandali, loro capiscono. Il padre è una persona notissima, un cittadino rispettabile. Lui corre la cavallina, loro capiscono. Prima guardia. Oh, capisco, signore. Seconda guardia. Va benissimo, signore. Prima guardia. Solo se ci fossero state lesioni avrei dovuto far rapporto al commissariato. Bloom annuisce rapidamente. Naturalmente, giustissimo. È il vostro dovere professionale. Seconda guardia. È il regolamento. Corny Keller. Buonanotte, ragazzi. Le guardie, ambedue, salutano militarmente. Notte, signori. Si allontanano a passo lento e pesante. Bloom, sottovoce. La provvidenza l'ha mandata qui al momento buono. Ha una vettura? Corny Keller ride, accennando col pollice dietro la spalla destra verso la carrozza ferma contro l'impalcatura. 2 commessi viaggiatori che hanno offerto lo spumante da Jamet come principi, in fede mia. Uno ha perso 2 ghinee alle corse, via ad annegare il dolore, e poi volevano provare con le ragazze allegre. Così li ho caricati sulla vettura di Bean e li ho scaricati nel rione dei bordelli. Bloom. Stavo tornando a casa per Gardiner Street quando mi sono trovato... Corny Keller ride. E volevano che andassi anch'io dalle pulzelle? No, per Dio, dico, non è roba per vecchi stagionati come me e lei. Ride di nuovo e ammicca con l'occhio opaco. Grazie a Dio che ne abbiamo in casa, eh? Lei capisce cosa intendo. Bloom si sforza di ridere. Sì? Fatto sta che ero venuto a far visita a un vecchio amico che sta da queste parti. Virag, lei non lo conosce, poveraccio. È a letto da una settimana e abbiamo preso un bicchierino insieme. Ero sulla strada di casa. Il cavallo nitrisce. Il cavallo. Casa! Corny Keller. È stato proprio Bean, il nostro fiaccheraio, che me l'ha detto dopo aver lasciato i due viaggiatori da Mrs. Cohen. E io gli ho detto di fermare e sono sceso per vedere cosa c'era. Cocchieri di carro funebre a stemmi, la mia specialità. Vuole che gli dia un passaggio fino a casa. Da che parte sta? Verso Cabra, no? Bloom. No, a Sandy Cove, credo, a quel che mi è parso di capire. Steven, prono, respira verso le stelle. Corny Keller, sbirciando l'intralice, borbotta qualcosa al cavallo. Bloom guarda a terra, incupito. Corny Keller si gratta la nuca. Sandy Cove. Si china e chiama Steven. Ehi! Lo chiama ancora. Ehi! È tutto coperto di trucioli, però. Guardi un po' se non l'hanno alleggerito di qualcosa. Bloom. No, no, no. Ho io i suoi soldi e il cappello e il bastone. Corny Keller. Beh, comunque supererà la crisi. Niente di rotto. Beh, io me la batto. Ride. Ho un appuntamento domattina presto. Seppellire i morti. Felice ritorno a casa. Il cavallo nitrisce. Casa! Bloom. Buonanotte. Aspetterò un momentino e lo porterò via tra cinque. Corny Keller ritorna alla carrozza e monta. La bardatura del cavallo tintinna. Corny Keller. Dalla vettura, in piedi. Notte! Bloom, notte! Il fiaccheraio scuote le redini e alza la frusta, come incoraggiamento. La vettura e il cavallo arretrano lentamente, goffamente, e voltano. Corny Keller, sul sedile laterale, dondola la testa di qua e di là, in segno di divertimento per la situazione in cui si trova Bloom. Il fiaccheraio si unisce alla muta allegria pantomimica, scuotendo la testa dal suo sedile più lontano. Bloom scuote la testa in una muta divertita risposta. Con un gesto del pollice e della palma, Corny Keller lo rassicura che i due sbirri lo lasceranno continuare a dormire, perché che altro c'è da fare? Con un lento cenno d'assenso, Bloom manifesta la sua gratitudine, poiché questo è proprio quello che ci vuole per Steven. La vettura tintinna, trallalla, oltre l'angolo del trallalla vicolo. Corny Keller di nuovo rassicura l'allà con la mano. Bloom con la mano assicura l'allà Keller che lui è rassicura l'allato. Il picchiettio degli zoccoli e il tintinnio della bardatura si attenuano con loro trallerallallerallio. Bloom, tenendo in mano il cappello di Steven, festonato di trucioli, e il bastone, rimane in piedi irresoluto. Poi si china su di lui e lo scuote per una spalla. Bloom. Ehi! Oh! Non c'è risposta. Si china di nuovo. Mister Dedalus. Non c'è risposta. Meglio l'altro nome. Sonnambulo. Si china di nuovo e, esitante, avvicina la bocca al viso della figura prostrata. Steven. Non c'è risposta. Chiama di nuovo. Steven! Steven, accigliato. Chi? Pantera nera, vampiro. Sospira e si stira, poi mormora con voce spessa e vocali soffocate. Che guida Fergus ora e penetra. Intrecciate ombre silvane. Si volta sul fianco sinistro, sospirando, piegandosi su se stesso. Bloom. Poesia. Colto. Peccato. Si china di nuovo e apre il panciotto di Steven. Farlo respirare. Spazza via i trucioli dagli abiti di Steven con mani e dita leggere. Una sterlina e sette. Non si è fatto male, però. Ascolta. Perbacco. Steven mormora. Ombre. I boschi. Biancoseno. Fosco mare. Tende le braccia in avanti, sospira di nuovo e si raggomitola. Bloom, tenendo cappello e bastone, sta in piedi accanto a lui. Un cane abbaia a distanza. Bloom stringe e allenta la presa sul bastone. Abbassa gli occhi al volto e alla figura di Steven. Bloom comunica con la notte. Il viso mi ricorda la sua povera mamma. Nel bosco ombroso, il profondo seno bianco. Ferguson, mi pare d'aver capito. Una ragazza, qualche ragazza, la miglior cosa che possa capitargli, mormora. Giuro che riconoscerò sempre, celerò sempre, mai rivelerò parte o parti, arte o arti, mormora. Sulle sabbie ineguali del mare, a una fune di distanza dalla spiaggia, dove la marea rifluisce e fluisce. Silenzioso, pensoso, vigile, sta in guardia, dito sulle labbra, in un atteggiamento da gran maestro segreto. Contro il muro oscuro appare lentamente una figura, un fanciullo fatato, undicenne, figlio cambiato, rapito, con l'uniforme di Eton e scarpine di cristallo e un piccolo casco di bronzo, un libro in mano. Legge da destra a sinistra mutamente, sorridendo, baciando la pagina. Bloom, stupefatto, mutamente chiama. Rudy. Rudy, fissa, senza vedere, Bloom nel fondo degli occhi e continua a leggere, a baciare, a sorridere. Ha un volto delicato color lilla. Sull'abito ha bottoni di diamanti e rubini. Nella mano sinistra libera ha un'esile bacchetta d'avorio con un nastro dal nodo violetto. Un agnellino bianco fa capolino dalla tasca del suo panciotto.